impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Maurizio Cimbali, la memoria del caffè al bar e nel mondo da oltre 100 anni. Di Anna Marino. Noi diciamo che per fare un buon caffè occorrono 5 M. Sono la macchina, il macina caffè, la manutenzione, la mano e la miscela. Molto spesso ci capita di vedere delle macchine che sappiamo funzionano benissimo, una marca di caffè straordinaria, e nonostante questo il risultato finale in tazza non ci soddisfa. Evidentemente ci sono delle variabili che non sempre si riescono a gestire, in modo particolare l'uomo. Sappiamo che l'uomo da un giorno all'altro può fare delle cose buone o meno buone. Noi, il nostro impegno è quello, dove è possibile, di automatizzare tutti quei passaggi che oggi penalizzano il risultato in tazza. Queste le 5 regole d'oro per fare un buon caffè, dettate da oltre 100 anni di esperienza, come quella che è arrivata fino alla quarta generazione del gruppo Cimbali, che Maurizio Cimbali testimonia da presidente, ma che vede già la generazione successiva dei figli, quarantenni, operativa nell'azienda, che progetta, produce e distribuisce macchine professionali per caffè e attrezzature dedicate alla caffetteria a marchio La Cimbali, Faema, Casadio ed Emerson, e offre al mercato la più ampia gamma di soluzioni per il bar e la ristorazione professionale. Dalla fondazione nel 1912, il gruppo Cimbali è arrivato lontano. Produce tutto in Italia, ha circa 650 dipendenti, fattura 150 milioni di euro, ha all'attivo 50 brevetti, esporta l'80% ed è presente in oltre 100 paesi. Ma Maurizio Cimbali ha ereditato e fatto suo anche un metodo infallibile per diventare assaggiatori di caffè e riconoscere un buon caffè all'italiana, ben fatto. Innanzitutto non metto lo zucchero, e già questo mi fa capire di più rispetto a quello che bevo. Un caffè molto zuccherato, se vogliamo, modifica un po' il sapore e il gusto del caffè. E poi è un fatto personale il gusto. C'è gente che preferisce un caffè molto bruciato, molto torrefatto, c'è gente che preferisce un caffè meno torrefatto, per cui è un fatto estremamente personale. Però diciamo che alla fine il retrogusto, quello che resta, è quello che le fa capire se il caffè che ha bevuto è un buon caffè o no. Il gruppo Cimbali ha appena compiuto 100 anni. Oggi ha sede a Binasco, in provincia di Milano, e conta 4 siti, di cui 3 produttivi, tutti situati in Lombardia. 100% made in Italy, per un'area totale di 85.000 metri quadrati, dei quali 46.000 coperti. I dipendenti sono più di 650 e il 30% opera all'estero. Ma la partenza è stata in piccolo, anche se fin da subito energica e tenace. 1912, via Caminadella Milano, che è una via del centro di Milano, oggi è una via degli antiquari. Mio nonno, che già lavorava da qualche anno per altri, ha deciso di mettersi in proprio. Ragione sociale era Giuseppe Cimbali, ramiere ed idraulico in Milano. Un proprietario e 2 dipendenti, 35 metri quadri. Lui lavorava il rame e di conseguenza ha iniziato a fare caldaie per macchine per caffè. E c'erano già allora delle aziende che costruivano macchine per caffè in Italia, Piemonte e Lombardia prevalentemente. Per cui la partenza è stata questa. Le macchine per caffè sono arrivate alla fine degli anni 20. Nel 29 il nonno ha dato il via alla produzione di macchine per caffè. C'era un cliente, società City, che non aveva fatto fronte a degli impegni dei pagamenti. Era una signora la proprietaria, e la signora alla fine ha deciso, parlando col nonno, di cedere l'attività. E da lì è iniziata la costruzione di macchine per caffè. I ricordi, la memoria, sono un bene prezioso in azienda, insieme alla bevanda italiana che da sempre curano in tutto il suo sapore tipicamente made in Italy. E ai tempi del fondatore Giuseppe Cimbali, il lavoro aveva ritmi serrati che si sovrapponevano alla vita di tutti i giorni, domenica compresa. I figli lavoravano dal lunedì mattina alla domenica mezzogiorno. Il pomeriggio della domenica era libero, e quando uscivano i fratelli, il nonno ricordava loro che il giorno dopo era lunedì. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito, perché non fate tardi che domani si riprende a lavorare. Beh, questo le può spiegare anche quanto era dura la vita. E poi un'altra cosa, direi degli anni 50 questa, i fratelli avevano l'abitudine di stare in azienda dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica era dedicato alla vendita. A tempo pieno passavano dalla produzione all'attività commerciale. E uno dei primi ricordi, credo di aver avuto 6-7 anni, la domenica mattina mio padre la dedicava ai grandi. grandi clienti. I grandi clienti erano Alemagna, Motta, i clienti di allora, quelli che meritavano di essere visitati, o i proprietari, io mi ricordo il vecchio commendatore Alemagna, mi ricordo anche altri, lo Zucca, i fratelli Zucca, il Campari, tutti i nomi che un po' ci ricordiamo, i brand ci sono ancora, no? Beh, venivano dedicati alla mattina proprio della domenica per parlare di che cosa, come va la macchina, siete contenti, e quella era un'occasione per avere delle informazioni di ritorno, c'è qualcosa che non va, erano poi gli argomenti della riunione del lunedì. Sempre a Binasco, vicino alla loro sede, hanno fondato nel 2012 il MUMAC, il Museo della Macchina per il Caffè Espresso. Un'esposizione permanente che attraverso le 100 macchine esposte, tra cui alcuni pezzi unici di Gio Ponti, ripercorre l'ultimo secolo di storia del nostro paese. In meno di un anno, dice Maurizio Cimbali, hanno trasformato un magazzino ricambi di circa 2000 metri quadrati in uno spazio dedicato al museo. Innanzitutto per noi era un sogno. Io ho conosciuto negli anni 90 al mercante in fiere di Parma, casualmente, un ragazzo, aveva 19-20 anni, che esponeva 4 macchine per caffè, una vecchia Cimbali, una vecchia Faemo, una vecchia San Marco, e non riuscivo a capire cosa ci facesse il mercante in fiera. Mi sono fermato e mi sono presentato. Questa persona era Enrico Maltoni. Aveva iniziato da 2 anni a appassionarsi di macchine per caffè, aveva visto una Faema, gli era piaciuta tantissimo. Beh, in 20 anni Enrico Maltoni ha fatto diventare la sua collezione una cosa straordinaria. 200 pezzi rarissimi, documentazione bibliografica di 15.000 documenti, una cosa straordinaria. Poi quando abbiamo pensato al centenario, al 2012, abbiamo capito che non potevamo non essere noi a fare il museo della macchina per caffè. E anche la pausa caffè è cambiata negli anni, come l'espresso e il suo gusto, con l'evoluzione della macchina per caffè. Una volta le macchine facevano caffè nero, non è l'espresso che si beveva adesso. C'era il macchinista che si occupava di caffè. La pressione per fare il caffè era un'atmosfera per cui cadeva quasi il caffè a gocce per percolazione, era caffè bollente, però si chiamava espresso. Perché espresso? Perché era fatto appositamente per te, cioè per il cliente che chiedeva il caffè, veniva fatto in 2 minuti, 2 minuti e mezzo, tempi che allora sembravano velocissimi, oggi ci vogliono 25 secondi, veniva fatto il caffè. Poi negli anni 50 l'invenzione della crema caffè, che vuol dire ottenere quell'espresso con la crema che siamo abituati a bere nei bar, nei ristoranti dove andiamo. Alla Cimbali stanno puntando sui mercati asiatici, dove sta crescendo la cultura del caffè. A novembre 2014 hanno aperto a Shanghai, dove tengono anche corsi di training per insegnare ai cinesi a fare il buon caffè in tazza. Siamo esportatori dalla fine degli anni 40. E non parlo di paesi emergenti, ma di ex paesi emergenti, perché oggi il Far East è diventato quasi, direi, uno dei mercati più importanti. Proprio parlando l'altro giorno di Shanghai, parlando del mercato cinese, Cimbali negli ultimi 5 anni ha decuplicato il giro d'affari sul mercato cinese. Fatturiamo 10 milioni di euro, che è pari al 7% del nostro fatturato. Con questa crescita, fra 2-3-4 anni potremmo ipotizzare che dopo l'Italia il mercato più importante possa essere la Cina. Investe circa il 6% del proprio fatturato nella ricerca e sviluppo, affidata a circa 60 dipendenti e suddivisa tra innovation e le product line, macchine tradizionali, super automatiche, macina dosatori. L'azienda ha all'attivo ben 50 brevetti e sviluppa progetti di collaborazione per lo sviluppo di nuove tecnologie con il Politecnico di Milano e le università di Bergamo e Stoccarda. Ma anche l'ambiente, non solo adesso in tempi di Expo, è nei pensieri di Maurizio Cimbali. Dotata di impianti fotovoltaici dal dicembre 2010, l'azienda, con i suoi oltre 1100 pannelli, lo scorso anno ha prodotto energia in autoconsumo pari al 13% del proprio fabbisogno. Già le nostre macchine danno la possibilità, attraverso una serie di interventi su certi componenti, di risparmiare fino al 25% a livello proprio di consumo. I materiali che usiamo sono tutti materiali assolutamente compatibili, così come l'aspetto igienico-alimentare per noi è importantissimo. Noi abbiamo oggi dei materiali, evidentemente, che dobbiamo assolutamente proteggere dalle bevande perché non ci sia eccessione, per cui c'è un'attenzione, nel nostro caso spasmodica, proprio a questi aspetti. Ma ora come allora, come per il futuro, valgono ancora le parole delle precedenti generazioni, del nonno, che Maurizio Cimbali ricorda così. Quando mio nonno è morto nel 66 avevo 21 anni. Le tre cose che diceva tutti e continuava a ripetere, era un po' ripetitivo comunque, per lavorare ci vuole una cosa, volontà. Bisogna avere amore per il proprio lavoro e bisogna sempre cercare di guardare avanti e di anticipare i tempi. Per me era modernissimo, cose banali, ma cose che oggi molte volte ci dimentichiamo. Non le dimenticherò mai. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.